2024 di Enrico Pagliarini. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. In questa puntata parleremo di una bellissima e nuova bicicletta piena di sensori. Parleremo anche di automobili, della modalità con cui ad esempio oggi vengono progettate le automobili e si possono fare dei crash test, cioè andare a sbattere l'automobile contro un muro per testare la capacità di tenuta negli scontri tramite sistemi informatici. Parleremo anche di quella che viene definita, questo mega trend chiamato Industria 4.0. Che cos'è? Basato sulla tecnologia, ma non solo sulla tecnologia. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. La Commissione europea è consapevole dei danni miliardari provocati dal cybercrime e per questo motivo ha deciso di stanziare 450 milioni di euro nell'ambito di un progetto sulla cybersicurezza inserito nel programma Horizon 2020, quindi 2020. Si tratta di un piano che dovrebbe generare investimenti da 1,8 miliardi di euro da parte del settore privato entro appunto il 2020. Secondo un sondaggio citato dalla Commissione, nell'ultimo anno almeno l'80% delle imprese europee ha subito un incidente di sicurezza informatica. Apple e l'Università di Napoli Federico II hanno firmato un accordo, già annunciato a gennaio, per fare nascere ad ottobre il primo corso della prima iOS Developer Academy d'Europa, quindi un'università per sviluppatori su iOS. L'università napoletana investirà 6 milioni di euro anche per sistemare la nuova sede, che dovrebbe accogliere 200 studenti il primo anno. Stessa cifra verrà investita dalla Apple nei prossimi 3 anni. L Venture Group, che è uno degli operatori di venture capital più importanti in Italia, ha inaugurato una nuova sede del Lewis N Lab, la fabbrica delle start-up nata nel 2013 da una joint venture con l'Università Lewis. Si tratta di uno spazio di 5.000 metri quadrati nella stazione Termini di Roma, quindi anche un ambiente molto comodo per i trasporti, destinata ad ospitare fino a 80 startup. Oggi sono una quarantina. È sicuramente una notizia molto importante per Roma e per tutto il settore startup. Due notizie relative al settore auto: BMW, Intel e Mobileye, che è un'azienda israeliana specializzata in visione artificiale, hanno annunciato una collaborazione per realizzare una piattaforma di guida autonoma aperta. Poi si capirà meglio nei prossimi anni che cosa significa aperta. L'obiettivo di BMW è lanciare un'auto a propulsione elettrica abbinata a sistemi di guida autonoma nel 2021. Altra collaborazione annunciata in settimana riguarda Volkswagen ed LG, che realizzeranno una piattaforma destinata alla Connected Car del futuro. Si parte dai sistemi di infotainment di bordo fino alle comunicazioni fra veicoli e veicoli, quindi vehicle to vehicle, e anche tra il veicolo e l'infrastruttura. In questo caso ovviamente ci dovrà essere un lavoro molto più complesso, non solo da parte della casa automobilistica o di altre case automobilistiche, perché l'infrastruttura, cioè la strada, deve essere equipaggiata tecnologicamente dallo Stato, dalle municipalità, quindi è sicuramente una collaborazione più complicata. Sensori sempre più piccoli, sempre più potenti, economici, sono uno degli ingredienti che ha permesso di realizzare, ad esempio, uno dei prodotti più popolari oggi, gli smartphone, e anche tanti degli strumenti chiamati smart. Non solo gli smartphone, ma ci sono gli smartwatch, un sacco di cose relative alla smart home, di cui parliamo spesso 2024. Ecco che cosa succede se sensori come accelerometri, giroscopi, sensori di temperatura, sensori di luminosità e tanti altri sensori vengono inseriti in una bicicletta che a questo punto si chiama Smart Bike, una bicicletta smart. Questa settimana Volata Cycles, che è una startup italiana che ha una sede anche in Silicon Valley, ha presentato a Milano questa nuova bicicletta che arriverà sul mercato il prossimo anno. Raramente a 2024 parlo di

Quindi, perché non prendiamo questo mezzo e lo miglioriamo? Mostriamo alle persone che la bicicletta è più evoluta di quanto pensano. Allora, gli richiede meno manutenzione, meno sforzo e gli permette di fare più cose rispetto a quelle che potevano fare con una bicicletta fino a ieri. Senti, torniamo ai sensori. Che tipo di sensori ci sono e a che cosa servono? Allora, quindi quello dell'allarme è un motion detector, è un accelerometro inserito dentro le canne della bici. La bici ha un suo termometro che permette di vedere dove è la temperatura. Cosa serve per l'applicazione del meteo, per esempio? Ha un sensore di luce, perché le luci sono automatiche. Anche qui, per ridurre le cose a cui la persona deve pensare, le luci si accendono da sole quando diventa buio. Poi una serie di sensori che servono in realtà a far funzionare cose di back-end della bici, insomma cose interne, vari sensori di temperatura e altre vibrazioni. E poi una serie di attuatori, quindi le luci, il clacson, un suo amplificatore che permette di suonare e far rumore. A questo punto lo facciamo sentire, che così è. Perfetto. Questo funziona, quindi... Da clacson se io lo attivo a mano, ma è lo stesso suono che fa se io muovo la bicicletta. Cioè, se tento di rubare la bicicletta suona l'allarme. Esatto, esattamente. Allora, tutti questi sensori e tutti i dispositivi che sono integrati in questa bicicletta, a che cosa mi servono nell'uso quotidiano? Allora, una cosa interessante, che è un trend che molte persone seguono, è anche l'analisi delle proprie performance, del proprio, diciamo, dati fitness relativi all'attività sportiva. In questo caso l'andare in bici è una cosa che viene analizzata, vengono analizzati i profili di velocità, la distanza percorsa, l'altitudine, il battito cardiaco viene preso da device esterni, quindi ad esempio da Apple Watch o altri dispositivi wearable. E questo permette in automatico, la bicicletta raccoglie queste informazioni e le manda allo smartphone, dove la persona le può vedere nell'applicazione nostra, fatta da noi di Volata, che scarica quando acquista la bici, e vede tutte queste informazioni. Può anche addirittura confrontarle con gli altri utenti di Volata, quindi vedere dove chi ha fatto un percorso più lungo, vince dei premi per aver utilizzato la bici di più. E in più c'è tutto un discorso grande che rientra nel concetto di smart city e di miglioramento della mobilità attraverso la tecnologia. Questa bici è tracciata, può fare una serie di misurazioni. I dati a cui si può accedere in maniera completamente anonima sono tantissimi. Pensiamo ad esempio al fatto che un comune possa ricevere le informazioni su quali sono le strade più battute dai ciclisti, quindi quali sono i percorsi in cui ci si mette meno tempo da fare da A a B in bici, quali sono le zone in cui purtroppo succedono, possono esserci degli incidenti o dei contatti tra una macchina e una bicicletta, le zone in cui si incontra un pericolo maggiore si deve suonare il clacson, piuttosto che le zone buie in cui vanno accese le luci. C'è una serie infinita di dati che possono essere raccolti e possono andare a contribuire a dati che vengono raccolti da altre infrastrutture, altre tecnologie, per migliorare proprio la mobilità urbana. Questa è una bicicletta che si connette con lo smartphone, con il Bluetooth. Io l'accoppio all'inizio e è la mia bicicletta e quello è il mio smartphone. Posso cambiare anche lo smartphone? Beh, immagino di sì, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però tu mi dicevi, è la prima volta che succede una cosa del genere. Esatto, la bicicletta fino ad oggi era un oggetto di metallo, senza nessun tipo di codice identificativo. Quindi quando le biciclette venivano rubate, erano perse praticamente, nel senso che non esisteva modo di dimostrare che la bicicletta fosse propria. Questa bici invece, nel momento in cui l'acquisto e l'associo al mio smartphone, il suo codice identificativo è legato a me come persona, come succede con uno smartphone adesso, per esempio. Lo smartphone ora, quando viene rubato, il modo in cui può essere rivenduto è con dei professionisti delinquenti che riescono a resettarlo, far scomparire ogni traccia del primo proprietario. Ma in questo modo la bici si sa di chi è, e anche se viene, innanzitutto se viene rubata, tutta l'elettronica viene completamente disabilitata, quindi nessuno può più utilizzarla come bici smart, ma la utilizza solamente come pezzo di metallo. E inoltre è più facile identificarla, scoprire dove si trova e capire di chi era il proprietario di quella bici. Allora, tu hai già detto, ma lo ribadiamo, che c'è un display che è integrato nella zona del manubrio. Che cosa vedo in questo display? Il display è basato su alcune app fatte da noi, che possono essere anche abilitate, ne potremo aggiungere anche altre in futuro. Ad esempio si può vedere velocità istantanee, percorsi, tutti i dati relativi al percorso che si sta facendo, distanza, velocità media, tempo di percorso. Si può avere un giudizio su come si sta performando, quindi stai andando forte oppure questo è un giro rilassato, questo tipo di cose. Informazioni sul meteo, che mentre si fa un giro in bici, sapere se entro mezz'ora arriva un temporale può essere importante. Notifiche dallo smartphone, quindi io tengo lo smartphone in tasca, se qualcuno mi chiama e manda un messaggio posso vedere una notifica, come succederebbe su un wearable device. Navigatore, imposto la destinazione nello smartphone, lo metto in tasca, e da quel momento in poi il telefono via Bluetooth manda le indicazioni stradali alla bici che mi guida nella città, invece destra a 300 metri, sinistra a 200, tutto questo tipo di cose. Se ascolto la musica mentre vado, vedo che brano sto ascoltando sul display. Un po' quello che succede nelle macchine moderne, per cui il telefono io lo tengo in tasca o lo tengo nel vano portaoggetti della macchina, lui si connette via Bluetooth col mio computer della macchina, io accedo a una serie di informazioni del telefono direttamente dal mio schermo, quindi non ho bisogno di fare come succedeva un tempo, avere il navigatore proprietario della macchina, quindi integrato nella macchina con le map che diventano obsolete. In questo tipo di applicazioni la tecnologia e il cuore risiede nello smartphone, che è sempre aggiornato e fa i suoi aggiornamenti over the air. La bici, diciamo che mostra una serie di informazioni che appartengono alla bici e altre che recupera dallo smartphone. Adesso faccio un ultimo squillo con il clacson. Questa bicicletta arriverà sul mercato, dicevo, fra un anno, ad un prezzo sicuramente non popolare, perché stiamo parlando di una bicicletta tecnologicamente avanzata, costerà $3,500 più le tasse, vedremo poi quale sarà il prezzo in euro, però non bisogna spaventarsi, qua stiamo parlando di una bicicletta che, paragonata ad una bicicletta simile senza sensori, potrebbe costare 2.000, 2.500, 3.000 euro. Stiamo parlando di una bicicletta molto molto bella, tecnologicamente avanzata, fatta anche con materiali di pregio. Poi ovviamente stiamo parlando di un primo prodotto, di una prima serie, e come sempre succede quando i prodotti escono nuovi e sono tecnologicamente innovativi, hanno prezzi sicuramente insomma alti. Poi sicuramente il target della Silicon Valley, quindi gente che ha anche denaro da spendere. Poi vedremo come si evolverà, ma la cosa interessante è capire come è stato pensato. Se ci pensate, questa bicicletta racconta molto bene come si può trasformare un prodotto popolare, consolidato, che non cambia da anni, proprio grazie alla tecnologia di cui parliamo sempre a 2024. La stessa cosa, in modo molto più vasto, molto più complesso, sta accadendo e accadrà a tutta l'industria, a tutti i prodotti. C'è un mega trend che si chiama Industria 4.0, se ne sta parlando molto in tutto il mondo, anche in Italia. Fortunatamente questo è un termine coniato dalla Germania, che nel 2011 e poi due anni, venne coniato nel 2011, poi due anni dopo prese forma in una strategia del paese per mantenere la leadership industriale. Allora, la prima rivoluzione industriale era basata sul vapore, la seconda sull'elettricità, le catene di montaggio, la produzione di massa, la terza sull'automazione, e qui arriva la quarta rivoluzione, basata pesantemente sull'informatica, sui sensori, quella che conosciamo come Internet of Things, la Internet degli oggetti, sulla capacità di raccogliere dati e analizzare questi dati anche grazie a sistemi di analisi di intelligenza artificiale, e poi tante altre tecnologie tutte messe insieme. Insomma, un gran caos, non è una cosa facile. In questo modo si hanno tantissimi vantaggi: maggiore velocità nel creare prodotti, maggiore efficienza, incremento della qualità, capacità delle aziende di creare nuovi modelli di business. Di questo parliamo nei prossimi minuti, è un trend interessantissimo e tra l'altro ancora molto nuovo, ci sono molte cose su cui non tutti gli esperti sono d'accordo, molte cose dovranno essere create, pensate, inventate, progettate. Quindi è un processo lungo dove la componente tecnologica è importante, molto importante, ma è soprattutto un cambiamento, una sfida culturale, organizzativa, generazionale, perché non possiamo pensare che gli uomini di azienda d'oggi possano fare tutto. Bisogna utilizzare, sfruttare anche i giovani, le start-up, queste nuove idee che nascono in tutto il mondo. Allora, siamo in ritardo? Ma alcuni dicono di sì, alcuni dicono forse, alcuni dicono di no. La cosa positiva è che c'è una diffusa consapevolezza, come ci ha detto questa settimana ad un evento che Confindustria ha realizzato e dedicato all'Industria 4.0, ci ha detto Elio Catania, che ho incontrato, il presidente di Confindustria Digitale. Se io faccio l'affronto tra oggi e 6-12 mesi fa, Innanzitutto se ne parla molto di più, basta aprire i giornali ogni giorno. Industria 4.0, manifattura 4.0, slogan mi vanno bene perché vuol dire che c'è attenzione sull'argomento. Secondo, il governo ne parla molto di più, ai massimi livelli dell'esecutivo, i ministri, il primo ministro Calenda stesso appena insediato ha parlato di Industria 4.0, quindi vuol dire che è alta nelle sue priorità. Confindustria, il tema è salito nella cabina di regia di Confindustria, è salito nella testa e nelle priorità del Presidente. Nelle imprese, girando l'Italia, abbiamo visto tantissimi casi, un numero crescente di piccole e medie imprese che hanno abbracciato il digitale e attraverso questo hanno superato le fasi difficili, che potevano portarli anche a scomparire dal mercato. Quindi gli esempi ci sono. Adesso è importante che tutto questo diventi sistemico, che non sia soltanto sulle punte di eccellenza. La pubblica amministrazione sta dando buoni esempi, il piano banda ultralarga sta camminando, le prime piattaforme strategiche dei servizi della pubblica amministrazione stanno avvenendo. Quindi ci sono, ripeto, elementi concreti per dire che il Paese ha capito che abbiamo perso 15 anni e che è tempo di muoversi. Ecco, a questo punto l'industria può fare da sola? No, assolutamente no, nessuno può fare da solo. L'industria ha capito che deve riguardarsi in casa sua, ecco perché abbiamo lanciato in Confindustria questo grande progetto di trasformazione competitiva digitale, che riguarda le nostre imprese, il nostro sistema di filiere. Nello stesso tempo però è importante che il governo capisca che tutta la politica industriale deve ruotare intorno a questo, le nuove professioni, la formazione, gli incentivi, le politiche di sostegno, le regole, l'urgenza con cui le piattaforme tecnologiche della PA devono essere messe a disposizione dei cittadini. Ecco, questi sono fattori ugualmente importanti ed insieme si può finalmente abbracciare questo progetto paese e riportare crescita in Italia. Si parla molto di Industria 4.0, se ne parla sicuramente di più rispetto a qualche mese fa. Uno dei fenomeni straordinari, direi, che molti politici parlano di tecnologia in questo modo. Parlando di Industria 4.0, di fatto sono costretti a capire qualcosina almeno di tecnologia. Un fatto positivo è che anche il mondo industriale sta parlando molto di questi temi tecnologici, organizzativi. Ad esempio, questa settimana io stesso ho partecipato a ben due incontri di Confindustria a Milano e ad Arezzo dedicati proprio a Industria 4.0. Questo sicuramente è un lato positivo, però ci sono ancora molti imprenditori che non conoscono questi temi. Una ricerca che è stata presentata questa settimana, il rapporto Assinform, ci dice che circa 4 imprenditori e 4 aziende su 10 non hanno mai sentito parlare di Industria 4.0, di queste tecnologie. Ne ho parlato, a proposito di consapevolezza, con Alessandro Perego, che è direttore scientifico degli osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Certo, il tema è sconosciuto soprattutto perché si tende a interpretare in maniera riduttiva Industria 4.0 come l'automazione all'interno delle fabbriche, e che è solo una piccola componente del tema. In realtà le tecnologie che stanno intorno all'Industria 4.0 sono molto più numerose e riguardano proprio sia tecnologie dell'information technology, quindi il mondo cloud, big data, eccetera, sia tecnologie più legate al contesto produttivo, come ad esempio i robot collaborativi o il tema per esempio della realtà aumentata all'interno delle fabbriche. Ma il vero punto non è neanche ancora questo, è la capacità di usare tutte queste tecnologie per connettere tra loro le risorse che fanno il sistema logistico produttivo, e queste risorse sono le macchine, sono le persone, sono i processi, sono le aziende tra loro all'interno del sistema e sono i sistemi logistici produttivi e i consumatori, per ridisegnare nuovi modelli di business. Ecco, questo è un tema veramente complesso ma è estremamente eccitante. Ecco, entrare nel merito di questo è ancora un lavoro molto lungo. C'è chi dice che siamo indietro come sistema paese, come sistema industriale. È vero, perché molte di queste trasformazioni nel mondo non sono ancora avvenute, non ci sono delle vere industrie 4.0. Sì, infatti, non bisogna neanche esagerare, no? Cioè, si parla di rivoluzione perché effettivamente la tecnologia dà a disposizione opportunità ad un costo e con delle prestazioni che erano inimmaginabili. Non è una rivoluzione che avviene nell'arco di 6 mesi, è una rivoluzione che necessiterà di anni. Quindi non siamo indietro in modo irrecuperabile. Certo, bisogna in primo luogo avere consapevolezza del fatto che questo è il cammino. Secondo, serve un contesto paese che aiuti. Ad esempio, serve la banda larga non dove non c'è l'industria, ma dove c'è l'industria. E terzo, serve un sistema di incentivi che sia un sistema promosso dal governo e dalla politica, che un sistema di incentivi che sia promosso dall'industria stessa dentro l'industria. Cioè i principali capofiliera delle filiere devono mettere in pista dei sistemi incentivanti per i loro fornitori e clienti a connettersi in modo digitale. Quindi non è un incentivo che arriva dall'esterno, è un incentivo che deve trovarsi anche all'interno del mondo industriale. Perché per competere si compete tra filiere e filiere. La capacità competitiva di un'impresa è legata alla capacità competitiva di tutto il sistema di fornitori, clienti che fanno parte dell'ecosistema competitivo. È un tema tecnologico? Cioè queste cose si fanno grazie alla tecnologia? Allora, grazie alla tecnologia certamente sì, ma è un tema culturale. Molte delle cose di cui ci stiamo riempiendo la bocca in questi ultimi periodi come nuovi modelli di business erano concepibili e anzi sono spesso stati concepiti moltissimi anni fa. Adesso hanno una capacità di attuazione grazie alla tecnologia. Detto questo, è ovvio che bisogna comprendere a fondo nuovi modelli di business, impatto sui processi, impatto sull'organizzazione, competenze necessarie, quindi tutte parole che non hanno a che fare con la tecnologia. Possiamo fare un esempio o due esempi di che cosa potrebbe voler dire realizzare Industria 4.0, quindi mettere insieme tutte queste cose per appunto trasformare le imprese, fare nuovi servizi, nuovi prodotti? Sì, uno degli esempi più eccitanti è quello che prende il nome di cloud manufacturing, non nel senso dell'uso del cloud nel manufacturing, ma nel senso di realizzare un sistema produttivo in forma cloud, per cui un'azienda che avesse bisogno di realizzare un prodotto, di produrre un prodotto, potrebbe postare online le specifiche di prodotto e dopo esiste una piattaforma che trova le competenze produttive necessarie per realizzare quel prodotto. Quindi un sistema produttivo in cloud. Questo è un esempio particolarmente interessante. Tutto un altro insieme di potenzialità è creato dal cosiddetto additive manufacturing, quindi la capacità di produrre con tecnologie additive. La capacità di produrre con tecnologie additive chiaramente rende possibili tutta una serie di modelli in cui immaginiamo il mondo dei ricambi. Non è necessario tenere a scorta ricambi per decine o decine di anni anche dopo che il ricambio è uscito di produzione. Si possono produrre i ricambi sulla base della necessità, cosiddetto on demand, realizzandoli direttamente vicino al luogo di consumo, riducendo quindi i costi di gestione delle scorte e anche di distribuzione. Beh, a proposito di tecnologia, tra poco sentiremo l'esperienza della Dallara, che è un'azienda italiana che progetta in fibra di carbonio telai, veicoli, si occupa di macchine da corsa. Adesso sentiamo il parere a proposito di tecnologia, quali sono le tecnologie più interessanti se si parla di Industria 4.0. Agostino Santoni è il presidente di Assinform. La prima, a mio avviso, sono i dati, cioè la creazione e la logica di avere un'organizzazione che è centrica sui dati. Secondo me, dal punto di vista tecnologico, è una grandissima innovazione. Per essere più esplicito, oggi le aziende certo hanno un numero di dati straordinario, strutturati o non strutturati, ma non li hanno ancora integrati nel loro modello di business e nel loro processo decisionale. Come decido? Con quali strumenti decido? Quindi i big data sono la prima tecnologia. La seconda è la connettività. Cioè quell'idea che avevamo di dire connetteremo tutto, oggi se penso alla robotica, se penso a tutti i dispositivi connessi, a tutti i nuovi abitanti della rete, è evidente che c'è un'opportunità di connetterli tutti. Connettività non vuol dire solo piano ultra broadband, piano banda larga del governo, ma anche e soprattutto tutti i servizi e tutte le connessioni che questo può rendere disponibile. Terzo, le piattaforme. Quindi i grandi protagonisti oggi della crescita del nostro mercato, sicuramente il cloud, cioè quell'infrastruttura, hardware e software, che mi consente di accedere a servizi computazionali praticamente infiniti. Allora se prendo questi tre fattori e li applico all'impresa italiana, noi pensiamo che ci sia un'opportunità. Queste tecnologie sono disponibili facilmente e quindi le imprese italiane possono utilizzarle già oggi molto facilmente o non è così facile? Ma l'esempio più estremo a mio avviso è che oggi è possibile acquistare capacità computazionale, capacità di calcolo semplicemente con una carta di credito. E penso che questo, se tradotto per chi ha detto ai lavori, se ritorniamo indietro di qualche anno, non era assolutamente pensabile. Oggi questo è possibile. Questo consente di ridurre costi. Tu dicevi bene prima la leadership, la competenza. È evidente che con questa disponibilità di innovazione, adesso il lavoro più importante è proprio quello di far cliccare imprenditori, amministratori che guardano il loro business e prendono il beneficio di tutta questa tecnologia disponibile. Però questo non è semplice. No, questa è la componente più difficile. Questa è la capacità di visione, di conoscenze, di nuove conoscenze, la parte più difficile. È per quello che la chiamiamo rivoluzione industriale. Nessuna rivoluzione è stata semplice e alcuni hanno interpretato, l'hanno vista prima e l'hanno interpretata nel modo corretto, ed altri ne pagheranno le conseguenze. Sì, sicuramente ci sono molte opportunità ma anche molti rischi, cioè se uno non riesce a cogliere questo cambiamento rischia, non dico che sia sicuro, però è molto facile uscire dal mercato. Ma a me piace dire che su questo tema non c'è piano B, quindi o lo si interpreta e lo si introduce nel modello, nel proprio modello di business e di come fare organizzazione, come pensare i processi, o se no sia fuori. Sicuramente lo sforzo di Confindustria è un inedito, diciamo. Per tanti anni tutto il mondo delle tecnologie era un po' ai margini, giusto? Beh, per me, per noi questa è una breaking news, nel senso che se oggi avete ascoltato anche la relazione del presidente Boccia, si notava la competenza, la visione e il focus che sta mettendo su questo tema, ma ancora una volta non per privilegiare l'information technology in quanto associazione, ma come abilitatore della visione, della strategia anche del mondo delle imprese a Confindustria. Allora, vi parlavo della Dallara, che è un'azienda italiana che progetta in fibra di carbonio, sviluppa l'aerodinamica delle vetture ad alte prestazioni, da corsa, fa simulazione della dinamica del veicolo attraverso supercomputer, fa prototipazione di questi veicoli. Allora, Andrea Pontremoli, che è l'amministratore delegato della Dallara, ha raccontato che cosa significa utilizzare l'informatica, utilizzare le tecnologie che conosciamo oggi per realizzare quella che viene definita Industria 4.0 nel suo settore. Per fare i salti devi usare l'informatica in una logica completamente diversa. Cioè l'informatica come strumento per cambiare i modelli di business delle aziende. Allora abbiamo cominciato a utilizzare l'informatica in maniera importante sulle tre cose che ho detto prima, quindi fibra di carbonio. Progettare con la fibra di carbonio vuol dire simulare in virtuale cosa vuol dire quando tu metti tutte queste componenti di carbonio insieme, perché quando fai una macchina in carbonio devi dire ma quanto carbonio ci metto, come oriento le fibre, che tipo di fibre uso, che resine uso, che tecnologia uso per costruirlo. Quindi hai tutte queste domande a cui rispondere. E tenete conto che quando sono arrivato ci volevano circa 24 giorni per fare un calcolo. Allora lì i supercomputer chiaramente hanno aiutato, adesso ci mettiamo meno di 8 ore, ma la cosa interessante è che abbiamo dovuto sviluppare i modelli matematici che sono rappresentativi della realtà che girano su supercomputer. Il primo cliente che ha utilizzato appieno questo è stato un cliente tedesco, la Bugatti, che avevano in testa di fare la macchina più potente e più veloce al mondo. Una macchina che fa, l'ultima che abbiamo fatto, la Chiron, fa 451 all'ora, è 1500 cavalli, tutto in carbonio, costa 2.400.000. Questi signori avevano sbattuto contro il muro 15 vetture e non riuscivano a passare i crash test. Allora abbiamo fatto tutti questi bei modelli matematici, abbiamo fatto i nostri run in maniera virtuale finché abbiamo trovato la soluzione migliore, macchina completa con dentro motore, gomme, tutto, e alla fine abbiamo fatto un crash e la macchina è passata. Quindi 15 crash moltiplicate per il costo della macchina, moltiplicate per il tempo, rispetto, quindi sono ordini di grandezza. E lì è arrivato il primo concetto di, ma se tu cambi il modello di business, quindi non ti metti lì a fare i prototipi e li sbatti contro un muro, ma cominci a ragionare con i modelli matematici che ti simulano la realtà, attraverso l'informatica io riesco a tirar fuori le migliori soluzioni per fare le cose che facevo prima. Questa stessa cosa l'abbiamo applicata sull'aerodinamica, abbiamo sempre due gallerie del vento che ci permettono di misurare quello che poi i computer ci dicono, E arrivo alla parte simulazione, che è questo simulatore di guida. È una navicella montata su 6 braccia, è un esapode, che si muove di 8 metri nello spazio con dentro un pilota. E il pilota guida una macchina che non è mai stata costruita. Guida solo modelli matematici. Vuol dire che io gli posso dire come è fatta la sospensione, per esempio, anche qui vi faccio degli esempi semplici, metto su le gomme, vado in pista e mi dice che temperatura ho sulla gomma anteriore sinistra, al centro, al laterale destro, laterale sinistro, che carico, quanti kilopascal ho sulla sospensione posteriore sinistra. Ho tutta una serie di elementi e sono 60.000 parametri che tengo insieme. Ma questa cosa ti permette? Vi faccio degli esempi pratici così capite bene. Gara in Bahrain di Formula 1. Bahrain è una pista molto particolare perché ha 2 caratteristiche. Uno, se tira il vento ci va sopra la sabbia e quindi cambia l'aderenza. Secondo, la temperatura. Lo spread di temperatura è altissimo. Stiamo parlando di 15 gradi. Da quando inizia la gara a quando finisce? Perché inizia col sole e finisce col buio. Siamo nel deserto, quindi c'è un gap altissimo. La Pirelli deve fare la gomma che vada bene in queste condizioni per la gara del Bahrain. Si presentano da noi con 30 tipi di gomme diverse da provare su una chiavetta USB, quindi loro che sono bravi hanno fatto i modelli matematici di quello che sanno bene, quindi delle gomme. Noi gli abbiamo dato tutto il resto dei modelli matematici, hanno provato queste gomme, mettendole nel nostro supercomputer a Varano de Melegari, provincia di Parma. Il pilota, per una strana coincidenza, non poteva essere da noi, era nella nostra sede a Indianapolis, negli Stati Uniti, sull'altro simulatore, quindi lui guidava negli Stati Uniti un supercomputer che stava a Varano e gli ingegneri di pista della Pirelli stavano in Bahrain. E questi signori vedevano tutte le telemetrie come se fossero in pista con un pilota reale, con una macchina reale. E hanno scelto quale gomma produrre per il Bahrain. Ecco, voi immaginate fare questo in un mondo non virtuale. Avresti dovuto costruire 30 tipi di gomme, andare in Bahrain, sperare che tirasse il vento per provare con la sabbia e poi non tirasse più per provare senza, sperare che le temperature fossero quelle giuste, quindi non avresti avuto le condizioni sufficienti per poter provare. Ecco, voi immaginatelo questo per chi fa i motori, è arrivata la Honda, chiavetta USB, modello matematico del loro nuovo motore, e io ti do tutto il resto. È arrivato quello delle sospensioni, quello degli ammortizzatori, quello della fibra di carbonio. Quindi, il nostro modello di business adesso cos'è? È vendere i modelli matematici. Interessante, no? Beh, ogni commento è superfluo. Questo è un pezzetto di Industria 4.0. Poi, di cose che si possono fare ce ne sono tantissime. Grazie alla tecnologia e grazie alla fantasia si possono fare tantissime altre cose. Poi, come dicevo, stiamo parlando di un tema sostanzialmente abbastanza nuovo un po' in tutto il mondo, quindi nei prossimi anni verranno create e ideate tantissime novità di cui parleremo a 2024. Riprendiamo subito con Stefano Quintarelli. Io sono Enrico Pagliarini, l'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare è 2024, quindi 2024 e radio24.it. Possiamo interagire anche su Facebook e su Twitter. Andiamo in onda tutte le settimane alle 22 del venerdì, alle 13.30 della domenica, oppure quando volete in podcast, anzi fate pubblicità al podcast di 2024, consigliate i vostri amici, i vostri parenti, i vostri politici di riferimento, anche nei vostri piccoli comuni, l'amministratore delegato dell'azienda, i tecnici della vostra azienda, dite ascoltate 2024. Ovviamente potete segnalare qualsiasi esperienza, basta che sia tecnologicamente avanzata e sia molto innovativa, di Industria 4.0, però attenzione che sia veramente innovativa. Un paio di settimane fa ci siamo lasciati con una promessa con Stefano Quintarelli, che ha scritto un libro che si intitola Costruire il domani, e ci siamo detti: beh, tornerai Stefano per raccontare altri futuri. Eccolo qua, Stefano Quintarelli, bentornato Stefano. Grazie Enrico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ti faccio subito una domanda per rispondere ad alcuni ascoltatori. Questo è un libro di carta. Sì. Un vecchio libro, vecchio, cioè il libro è nuovo, ma insomma è il supporto è cartaceo. E alcuni hanno detto: ma come mai non esiste l'ebook, la versione? C'è un motivo. No, c'è un motivo. Intanto un motivo era perché il libro non è per tecnologhi, è un libro per non tecnologhi, è pensato per le persone che devono in qualche modo prendere delle decisioni per se stessi, per la propria azienda, per la politica, e quindi è un libro pensato per aiutare queste persone a decodificare le grandi trasformazioni in atto e dare un'idea di quello che accadrà in futuro. E queste persone non sono quelle che già conoscono questi temi. Ci sono cose importanti, interessanti a mio avviso anche per le persone esperte, perché cerca di dare una visione organica, che è una cosa che non si trova tanto di frequente, però il target principale è un target di persone a cui che raggiungi con la carta. E anzi devo dire che io ringrazio il Sole 24 Ore, perché è edito dal Sole 24 Ore. Ringrazio perché il Sole 24 Ore, da quanto so, non manda più libri in edicola, e credo che questa sia stata l'ultima eccezione che hanno fatto, perché è stato anche distribuito in edicola, proprio perché per una collana del Sole, che tradizionalmente è uno strumento di lavoro per le aziende, quindi il significato era di fare qualcosa che sia azionabile, che possa dare degli spunti alle persone che devono prendere decisioni per la loro vita, per la loro azienda e per il pubblico. Però c'è una versione in PDF, sì. Si può trovare cartaceo e PDF sull'e-commerce del Sole. Faccio pubblicità al Sole, shopping24.sole24. Va bene, allora invece io ti voglio sfruttare, ti sfrutto per alcuni dei contenuti interessanti che ci sono in questo libro. Allora, tra i futuri di cui tu parli c'è anche quello delle automobili, dei veicoli automatici. Ed è un tema, diciamo, sempre di attualità, però in queste settimane di maggiore attualità per un incidente, è stato il primo incidente mortale che ha coinvolto un veicolo considerato quasi automatico, perché la Tesla di fatto è forse quella che ha i sistemi di assistenza alla guida più sofisticati. E quindi c'è un grande dibattito, alcuni che dicono: ah, visto che allora i veicoli automatici, però quelli non sono veicoli automatici, quelli devono ancora arrivare e ci saranno delle evoluzioni future. Sì. La tua visione? Ma non è una questione tecnologica, nel senso che dal punto di vista tecnologico ogni persona che si occupa di tecnologia si può immaginare benissimo queste cose che funzionino, cioè benissimo, diciamo 10 anni fa, adesso se le puoi immaginare. E il problema è tutto il resto, tutto quello che tecnologico non è. E mi spiego. Vabbè, intanto credo che gli incidenti mortali di Tesla nelle ultime settimane siano stati 2, ma non è un problema di Tesla. Sì, c'è chi dice 3 addirittura, però sì, c'è un po'. Loro hanno chiamato il sistema autopilot, e questo ha probabilmente generato l'idea che l'auto potesse guidare da sola. In realtà è un sistema di ausilio alla guida. Nelle condizioni di servizio del contratto c'è scritto: devi tenere le auto sul volante ed essere pronto ad intervenire, se no ogni cosa sono cavoli tuoi, ogni cosa che succede. Perché il fatto è questo: di chi è la responsabilità? La responsabilità su un'auto normale è del guidatore, però qui di chi è? È del sistema di guida? È del padrone dell'auto perché non ha fatto correttamente la manutenzione? Sono cause di forza maggiore? È responsabilità di qualcun altro con cui andiamo a collidere? Cioè c'è un tema di identificazione della responsabilità che cessa di essere così netto, e questo apre le porte a cause milionarie. Ovviamente immaginiamoci il primo incidente dove uno magari non resta morto, ma anche per il poveretto, quello morto, la famiglia faranno sicuramente delle azioni risarcitorie. E quindi c'è un tema, c'è un grosso tema di responsabilità che poi rischia anche di essere di avere risvolti penali. Poi c'è un altro aspetto, ed è che tante situazioni oggi vengono giudicate ex post, cioè faccio un incidente, ho una vittima, una fatalità, e questo viene giudicato dopo se la persona che guidava poteva legittimamente evitare questa cosa, se era in guida in stato di ebbrezza e via dicendo. Cioè si giudica dopo. Se io faccio un sistema, certi giudizi li devo fare ex ante. Ad esempio, l'esempio classico è quello che viene chiamato il problema del trolley. Se io sono in una situazione dove per forza devo andare addosso alla persona che sta attraversando la strada, oppure decidere di sterzare e andare contro un palo, e quindi sacrificare il guidatore o sacrificare il passante, la macchina che cosa decide? Certo, allora, devi deciderlo prima. Devi deciderlo prima. mentre negli incidenti normali lo decidi dopo. Avresti potuto, magari sbagli, però poi ci sono tre gradi di giudizio, c'è l'imprevedibilità, eccetera, dell'umano. Invece la macchina è tutto prevedibile, e non fare è solo l'imprevedibilità e... dell'umano, è anche l'imprevedibilità della situazione, certo, la certo. buca che si apre, la situazione meteo con visibilità ridotta, il fenomeno atmosferico, cioè sono tutte cose che un po' alla volta le macchine impareranno a fare. Però il problema è strutturale, perché dobbiamo determinare ex ante di chi è la responsabilità, non ex post, e determinare ex ante è molto complicato, perché appunto poi c'è il tema che quell'auto l'ho comprata, è stato il produttore dell'auto, il produttore del componente, il produttore del software, la mia manutenzione scadente. Allora io credo che l'unico modo, che avremo sicuramente dei sistemi, ma ci sono tante altre situazioni, per esempio è legittimo per la polizia bloccare remotamente un'auto? E quindi farla accostare sarà legittimo, è giusto? Sarà legittimo, e uno può dire sì, oppure però se per caso invece quello sta facendo le infrazioni perché deve portare una persona in ospedale, cioè ci sono tutte cose che noi regoliamo in qualche modo con valutazioni che vengono fatte ex post, che devono diventare ex ante. Oltre a questo ci sono dei fatti puramente emotivi, non cambia minimamente lo scenario però a volte le reazioni emotive sono sbagliate, no? Banalmente certe questioni, adesso con il terrorismo ce l'abbiamo tanto con gli immigrati, mentre il terrorismo in Europa è fatto tutto da persone che sono nate qui. Però questa cosa ha generato un'ondata nella massa delle persone di reazione e repulsione dell'immigrazione. Questo per dire che non c'è un approccio sempre razionale. Immaginiamoci che un'auto venga usata, un'auto guida automatica venga mandata davanti a un ospedale con una bomba e fatta esplodere. No, il giorno dopo, cioè non cambia niente, perché quello che si vuole far esplodere andrebbe lo stesso, però il giorno dopo possiamo stare tranquilli che ci sarebbe una reazione non razionale che ostacolerebbe. Cioè quindi, contro le auto automatiche. Quindi ci sono tante situazioni, sì. Quindi non è tanto il fatto tecnologico in sé. I sistemi di guida, quindi, dal mio punto di vista, continueranno a migliorare, diventeranno sempre più ricchi, sempre più sofisticati. Magari assisteremo a una regolamentazione che imporrà il fatto di rilevare che l'autista effettivamente abbia le auto le mani sul volante, che stia guardando fuori e che non stia guardando un film o giocando a scacchi. Sì, sì. Quindi, però, saranno sempre e per lungo tempo strumenti di ausilio alla guida, a meno che non facciamo dei contesti specifici per quei veicoli. Voglio dire, sistemi di guida automatica all'interno dei grandi superfici, all'interno di aziende, eccetera, ci saranno sicuramente. Magari anche corsie autostradali riservate. Ma infatti quello sarà sicuramente il futuro. Il professor Broggi, che tante volte avete sentito a 2024, che guida il Vislab, ha sempre detto: io immagino che i primi a fare la guida autonoma saranno camion in fila in autostrada. Li metto tutti in fila e vanno dritti. Esattamente, questa è una situazione. Sono situazioni altamente standardizzate e situazioni prevedibili. Si potrebbe anche pensare un'altra cosa, e questa è una suggestione che ho lanciato a qualche amico, qualche collega. Si potrebbe anche pensare di prendere un pezzo di una città e vietarla al traffico delle auto private. Quindi le auto diventano tutte auto pubbliche, quindi evito il problema della responsabilità, perché è il pubblico che è responsabile di tutto, quindi non c'è un responsabile. Solo auto guida automatica, quindi evito il problema delle cose. Solo auto di proprietà pubblica, quindi evito il problema della responsabilità, della manutenzione, eccetera. E creo dei parcheggi di in pratica frammento il trasporto pubblico, certo, rendendolo automatico. Nel centro di Milano si fa così da domani. Sì, magari il centro di Milano è un po' grosso, un po' complicato, però diciamo nel centro di una città da 200.000 abitanti magari si può anche pensare a una cosa di questo genere. Così si può cominciare a vedere, no? Si può cominciare a fare una sperimentazione. Forse questo potrà accadere, potremo vedere delle piccole città con delle parti di città assolutamente a guida automatica, ma non privata. Dunque, tu hai citato la polizia, interessante, cioè se la polizia potrà prendere il controllo dell'automobile. Ecco, tu dedichi un capitolo alla polizia, il futuro delle indagini di polizia, questo è molto interessante. È un tema molto spinoso perché attiene direttamente ai diritti delle persone, e nel nostro caso che risalgono alla Costituzione, quindi qui c'è un tema. In realtà, cito di nuovo la massima di Gibson, il futuro è già qui, solo che non è distribuito in un modo uniforme. Quello che succede con lo sviluppo dell'elettronica è che i terminali diventano sempre più potenti e l'intelligenza si sposta nei terminali. Questo vuol dire che la commutazione non avviene più in un luogo centrale dove era sufficiente attaccare uno spinotto, ma la comunicazione avviene direttamente tra i due endpoint, peer-to-peer.

non banale, perché un conto è dire vabbè facciamo una roba al telefono, un conto è muoversi o far muovere le persone per venire nei nostri studi, che è sempre anche organizzativamente parlando un po' più complicato. Però questa è la radio, almeno dove si può si usa il microfono. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo, il mio indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di posta elettronica del programma è 2024, scritto in cifra, 2024 @radio24.it. Torniamo la prossima settimana, siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, oppure domenica alle 13.30 fino alle 14 con una breve replica, o quando volete in versione podcast. Come sempre vi consiglio di suggerire l'ascolto di 2024, magari si prende spunto per una buona idea e i nostri ospiti ci offrono sicuramente tantissimi spunti. Ci risentiamo la prossima settimana, ancora un ringraziamento per il vostro ascolto.